in primo piano. Beh, insomma, la questione mafia, giustizia ancora è in primo piano sui giornali, oltre ad altre notizie. Mafia, Berlusconi all'attacco su Repubblica, questa è l'apertura. Berlusconi contro la mafia, mai nessuno più duro di me. Questa è la Stampa, mentre Berlusconi due patacche di Repubblica, questa è l'apertura del giornale. Poi vedremo quelle che sono, secondo il giornale, le patacche di Repubblica. La scelta invece del Corriere della Sera è la notizia che arriva dalla Svizzera, anche questa è importante. No della Svizzera ai minareti. Esulta la Lega, ora in Italia la croce sulla bandiera. Mentre per quel che riguarda il Sole 24 Ore, l'anno nero dei professionisti, questa è l'apertura, il Sole 24 Ore del lunedì che poi vedremo. Allora... il tema giustizia, come detto, Berlusconi e le accuse di mafia, io l'ho combattuta più di tutti, leggo dal Corriere della Sera. Leggere i giornali, ciò che trova scritto proprio non gli piace, ecco perché Berlusconi ha dettato alle agenzie una nota durissima e altre denunce contro il gruppo Repubblica Espresso. Questo sul Corriere della Sera, ieri animata la giornata anche dall'intervista che Dell'Utri ha fatto a Luce Annunziata nella trasmissione In Mezz'ora. Ne danno ampio resoconto tutti i giornali per chi non l'avesse vista. Io ho un evidente conflitto di interessi, ma dico che la legge sui pentiti dovrebbe essere modificata, ha detto Dell'Utri, tra l'altro. Lo chiedo a nome delle migliaia di persone che hanno avuto la vita rovinata dai collaboratori e poi sono state assolte. I pentiti sono utili, ma vanno regolamentati. Basterebbe copiare le norme in vigore negli Stati Uniti. Come è ammissibile che dopo 15 anni uno si alzi e dica Berlusconi e Dell'Utri? Perché non ha parlato prima? Poi Dell'Utri ha detto tante cose, ha confermato ancora la sua definizione di eroe per quel che riguarda Vittorio Mangano, vale a dire, come ricorda il Corriere, il mafioso che fu assunto da Berlusconi come stalliera d'Arcore negli anni 70. È stato un eroe perché in carcere fu invitato a parlare di me e di Berlusconi con la promessa di andare a casa. Insomma, questo è il clima. Leggendo su Repubblica, nella retroscena di Liana Milella, il PDL accelera sul concorso esterno, una legge ad hoc per neutralizzarlo. Bisogna dire che già nei giorni scorsi se n'era parlato, il ministro Alfano ha detto e ha ribadito in un'intervista non è assolutamente allo studio nulla, e però oggi Repubblica insiste, dice che sarà un parlamentare, non il governo, ma un qualche deputato, qualche senatore che presenterà a breve una proposta per cambiare sostanzialmente quella vicenda, quel reato che reato non è per il codice penale, ma è considerato reato per prassi, insomma, quello del concorso esterno in associazione mafiosa, che secondo Liana Milella doveva essere la carta segreta da giocare subito dopo aver chiuso la partita del processo breve. Martella da giorni il Foglio, come abbiamo reso conto quindi alla rassegna stampa con Giuliano Ferrara, ancora sabato ha definito il reato una chiacchiera. Ebbene, che cosa sarebbe allo studio secondo Repubblica? Sarebbe allo studio un percorso giuridico nel quale si vorrebbe palettare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, cioè stabilire che cosa può essere concorso e cosa non può esserlo, costringendo i magistrati a muoversi in un percorso giuridico più stretto e non passibile di ulteriori interpretazioni giuridiche. Per usare le parole di Dell'Utri, evitare di incriminare chiunque non sia criminale. C'è un po' tutta la vicenda, insomma, della eco che ancora si sente dopo le parole di Berlusconi, che ha detto più o meno strozzerei quelli che hanno scritto libri sulla mafia o la piovra, dando un'immagine negativa all'estero dell'Italia. Beh, Damiano Damiani, che secondo Repubblica dice una di quelle persone che Berlusconi, virgolettato, vorrebbe strozzare, è stato uno degli autori registi della piovra, la fiction sulla mafia forse più famosa all'estero. Se trovo che ha scritto la piovra lo strozza, aveva detto tra il serio e il faceto Berlusconi. Bene, ieri la famiglia di Damiani, che oggi ha 87 anni, ha scritto una lettera aperta per ribattere a queste parole, per dire che siamo certi di non fare brutta figura se mostriamo di essere un paese che riesce a raccontare i propri problemi e le proprie difficoltà. Da questo punto di vista l'Unità intervista Marcel Padovani, che è una giornalista straniera ma da tantissimi anni in Italia, vive a Roma, ha scritto tra l'altro, celebre per aver scritto con Giovanni Falcone, Cose di Cosa Nostra, un libro intervista con Giovanni Falcone, anni fa ovviamente. Marcel Padovani dice: Berlusconi avrebbe strozzato anche Giovanni Falcone, insomma, immagine molto, molto forte. Perché dice, sì, ho scritto un libro con Falcone, allora strozzerebbe anche Giovanni Falcone Berlusconi. Berlusconi dovrebbe scrivere un libro dal titolo La mafia è morta, ma sappiamo bene che nella finanza, nel traffico degli stupefacenti, delle armi, la mafia non è morta. Dice Marcel Padovani in questa intervista all'Unità a Yolanda Bufalini, dice anche, questa è proprio la linea di Berlusconi, insomma, vari anni fa ci chiamarono al Ministero degli Esteri per discutere come si potesse migliorare l'immagine dell'Italia. Alcuni di noi giornalisti risposero che per farlo bisognava migliorare l'Italia e lasciar perdere questa idea manipolatoria, ma questo è proprio nella linea di Berlusconi, lui vive nel Truman Show. Questo secondo Marcel Padovani. Veniamo al giornale, a questa accusa che c'è in prima pagina. Berlusconi, due patacche di Repubblica, le origini dei capitali Fininvest. Era un paio di giorni, per chi avesse perso un paio di puntate anche nel weekend, Giuseppe D'Avanzo e Attilio Bolzoni su Repubblica si sono concentrati sull'origine dei capitali che avrebbero dato vita a Fininvest, e, dicendo meglio, questa è stata la reazione di Marina Berlusconi, che ha annunciato querele, si adombra il sospetto che ci siano dei capitali un po' loschi, da qui la querela di Marina Berlusconi. Oggi Berlusconi, due patacche di Repubblica, scrive il giornale. Il quotidiano di De Benedetti, per inventare soci occulti del Premier, si aggrappa a una perizia del 97 e a un libro inchiesta. Peccato che il perito due anni fa ammise di essersi sbagliato e l'autore del saggio oggi dica: mai scritto di soldi mafiosi. Si legge a pagina 3, il perito, la perizia è quella citata da Repubblica, una perizia di 10 anni fa in cui scrive oggi il giornale: ecco la prova che smonta le accuse a Fininvest, perché c'è un atto pubblicato a pagina 3, il testo integrale di una transazione tra la Fininvest e il perito citato da Repubblica, Francesco Giuffrida, il consulente del pool di Palermo che firmò la perizia sui flussi di capitale alla società di Berlusconi, che fu poi citato per danni dalla stessa gruppo di Segrate e che poi accettò di firmare una transazione che il giornale pubblica in maniera integrale, nella quale sostanzialmente definisce la perizia che fece per la Procura di Palermo parziale, incompleta e necessaria di nuovi approfondimenti. E poi il libro che citarono D'Avanzo, che hanno citato D'Avanzo e Bolzoni, è il libro di Paolo Madron, un libro di diversi anni fa. Paolo Madron oggi al Sole 24 Ore, che in una breve conversazione, qualche virgolettato con Maria Teresa Conti, dice: io nel mio libro, dalla mia inchiesta, non emerse nulla di simile, o meglio, non emerse nessuno parlò di capitali malavitosi. Insomma, la battaglia è un po' di questo tipo, tanto che io voglio andare a vedere che cosa scrive Piero Stellino in prima pagina del Corriere della Sera, nell'editoriale: politica timida, poteri forti. Si chiede Piero Stellino nel suo editoriale: qualcuno vuole sconfiggere Berlusconi come uomo politico o come proprietario di Mediaset? Perché le polemiche inducono a ipotizzare uno scontro di poteri diverso da quello che finora si è affacciato sui media. È in corso una guerra, per Ostellino, per la ridistribuzione del potere tra capitalismi, sulla quale si è innestato un confronto politico-sociale per la ridistribuzione delle risorse pubbliche. E ciò che colpisce è il crescente imbarazzo dell'opposizione, a parte Di Pietro, che rivela di non capire quello che sta succedendo, davanti alla crisi, all'impazzimento delle istituzioni. È come se il PD, scrive Ostellino, si chiedesse se una volta al governo non gli potesse capitare la stessa sorte il giorno in cui finisse nel mezzo di una guerra tra capitalismi e mettesse mano a una riforma dello Stato. Insomma, dubbio di Ostellino non è tanto una lotta politica, ma quanto una lotta quasi economica, proprio tra capitalismi, una lotta finanziaria che mirerebbe all'impero economico più che al potere politico dello stesso Presidente del Consiglio. Dicevamo che a proposito di gossip, o non è gossip, perché tutto ciò che riguarda un uomo pubblico dovrebbe essere pubblico o dovrebbe rimanere privato, questo è il sondaggio nostro di oggi, Il video con la Mussolini e Fiore fu offerto a Palazzo Chigi. Questo è, lo trovate sia sul Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, sia sulla Stampa Guido Ruotolo. Video hard offerto a Palazzo Chigi. Questo è il titolo della Stampa, ma vedete che cambia di poco. Leggo dal Corriere della Sera: un video che ritrae un parlamentare europeo e una deputata mentre fanno sesso fu offerto agli inizi di settembre alla Presidenza del Consiglio con una lettera inviata da un uomo che si firma A.C., che comunque è stato già identificato. Beh, i magistrati, non ci sono nomi in questa lettera, ma i magistrati sono convinti che si riferisse al filmato che ritrarrebbe appunto Alessandra Mussolini e Roberto Fiore, di cui si è parlato molto. Il mittente della missiva è stato individuato, perquisito. Pare che abbia detto: non c'ho un soldo e speravo che Silvio Berlusconi fosse interessato e mi pagasse. Poi ha aggiunto: quel video non ce l'ho, non sono stato io a girarlo, ho soltanto fatto da intermediario. Insomma, la trama si complica come al solito. Il problema è che Guido Ruotolo sulla Stampa si chiede: ma insomma, ma questo video c'è o no? Perché poi anche la notizia, anche e soprattutto per non gettare nel tritacarne due personaggi politici, è questa, perché altrimenti si sta parlando di che cosa? Esiste o è una bufala, per dirla con uno dei protagonisti, il video hard di Alessandra Mussolini e Roberto Fiore? Ma anche se fosse una patacca, perché qualcuno, quel signor A.C., si è premurato di offrire il video persino a Palazzo Chigi? Ed è sempre lui che lo ha proposto al giornale? E se si trattasse di un mitomane, di un millantatore? Che storia di veleni anche questa, l'ennesima in quest'autunno capitolino. Basta scorrere le cronache della Fermarrazzo, quelle dello schizzo di fango che colpisce Alessandra Mussolini, per tornare indietro nel tempo, al 2005, vigilia delle regionali. Eh sì, perché Guido Ruotolo dice: casualmente anche nel 2005, vigilia delle regionali e del Lazio, come adesso. E di cosa successe? Beh, ricordate gli scandali di presunti 007 che guardavano in casa degli altri che si erano candidati, qualcuno che cercò di incastrare peraltro con un trans lo stesso Marrazzo. Insomma, la situazione, dice Guido Ruotolo, è che viene da chiedersi qual è l'obiettivo, se far soldi, se condizionare l'esito delle campagne elettorali, eccetera. Si sa che di fatto di questo video non se ne sa nulla, vero o no che sia. Il no della Svizzera ai minareti, questo dicevamo è l'apertura del Corriere della Sera, ma trovate su tanti giornali quello che è il resoconto di ciò che hanno deciso nella Confederazione Elvetica in un referendum popolare. Sostanzialmente sono stati vietati i minareti, un verdetto peraltro a sorpresa, non era atteso. È pieno di commenti su Repubblica, l'intervista al ministro Calderoli, esulta soprattutto la Lega in Italia. Calderoli dice: un messaggio all'Europa, fermiamo i loro simboli. Sul Corriere della Sera, tra i vari commenti, ripeto, troverete Vittorio Messori, Pierluigi Battista, troverete vari, su vari giornali, insomma, declinata in diversi modi. Mi interessa leggere quello che dice il direttore dell'Osservatore Romano, vale a dire il quotidiano del Vaticano, Giovanni Maria Vian, che dice: insomma, sono iniziative di carattere politico estremistico, già visto in Austria, una campagna molto aggressiva giocata sulla paura che purtroppo ha fatto breccia. Di per sé in Svizzera non mi pare che cambi granché dal punto di vista della libertà di culto religioso. Le moschee ci sono, i quattro minareti che resistono resteranno. Il problema è simbolico più che altro. E poi alla domanda, ma insomma, c'è chi dice che nei paesi islamici non c'è libertà di culto, non c'è reciprocità, e quindi bisogna reagire con durezza? No, come diceva l'arcivescovo Antonio Maria Vegliò, Gesù non si è comportato così. Questo non significa ignorare i problemi vanno visti e affrontati. Insomma, ma trovate molto di commento. Voglio andare rapidamente ai temi economici. Prendo in mano solo le 24 ore del lunedì, che lancia un allarme, insomma, l'anno nero dei professionisti. Il titolo di apertura di prima pagina è abbastanza emblematico. Che succede? Beh, manca un mese alla fine dell'anno ed è già definito un anno nero per i professionisti. 6 mesi di attesa per incassare la parcella, basterebbe questo dato medio per abbastanza gettare un po' di inquietudine. Secondo il Sole 24 Ore, appunto, si tratta di un giro d'affari per i professionisti calato tra il 10 e il 30% per quest'anno. Soffrono di più chi? Gli agronomi, meno 30-35%, gli architetti, meno 30%, gli avvocati dal 15 al 20% in meno, i commercialisti dal 15 al 20% in meno. Ovviamente ciò che allarma di più è il calo del giro d'affari, anche se, scrivono Marco Mobile e Giovanni Parente, in questa inchiesta ricca, come al solito il lunedì, di dati, non c'è una tendenza ad abbandonare, anzi la tendenza in atto è quella di resistere, magari facendo squadra, magari associandosi negli studi, magari cercando qualche modo così di tenere duro, sperando che arrivi anche un momento di ripresa. Voglio segnalare sempre dal Sole 24 Ore Anna Zavarit, pagina 10, visto che manca sempre un mese, in questo caso al Natale, e quindi i consumi sono monitorati a maggior ragione in questo periodo dell'anno. Natale sarà meno low cost. Qual è la tendenza? Beh, la tendenza è che secondo le indagini un terzo degli italiani ha destinato un budget tra i 200 e i 500 euro per il Natale. Si respira un'aria nuova a quest'autunno, scrive Anna Zavarit. Certo, non si è pronti a mettere la tredicesima sotto l'albero, ma sembra che quest'anno a Natale ci saranno meno regali ma di valore. Per esempio stanno avendo un grande successo gli smartphone, più cari ma dalle prestazioni maggiori, oppure i PC dell'ultima generazione. Insomma, si spende magari meno regali ma più azzeccati e con anche la voglia di spendere qualcosa. Voglio andare come ultima segnalazione a quello che è un'inchiesta della Stampa, mi inquieta abbastanza. Il mistero delle tasse scomparse, Tributi Italia. È una società che incassa le somme ma non le riversa. A chi? Ai comuni. I comuni sono al collasso. È un'inchiesta di Paolo Baroni. Tasse sparite nel nulla, decine di comuni sull'orlo del crack, almeno un migliaia di posti di lavoro a rischio. Ufficialmente il conto è di 89 milioni di euro. Sono stime del Tesoro, del Ministero del Tesoro, ma potrebbe salire fino a 500 milioni di euro. A battere cassa sono 135 comuni. Che succede? C'è una società che oggi si chiama Tributi Italia, che secondo questi comuni, ma ovviamente è tutto da verificare, è una società che è inizialmente è nata per raccogliere la pubblicità, poi è passata a riscuotere le imposte su insegne e cartelloni stradali, che avrebbe incassato tutti appunto le imposte per i comuni, e però ora sarebbe in difficoltà, a meno c'è anche una dichiarazione dell'amministratore delegato di Tributi Italia dicendo stiamo attraversando solo un momento di tensione finanziaria, per cui faticano a redistribuire ai comuni ciò che hanno incassato per loro, e ci sarebbero molti comuni sul lastrico. Per esempio il sindaco di Aprilia fa un'intervista, dice noi dobbiamo avere 25 milioni di euro. Tiriamo avanti grazie alla sensibilità dei cittadini che hanno deciso di versare i tributi direttamente sui conti del comune, ma certo questa situazione pare che sia una situazione molto molto difficile. Da Bologna a Sassari ci sono almeno una decina di procure al lavoro per vedere che cosa sta succedendo riguardo a questa Tributi Italia. Mi fermo qui.